L'amore non si costruisce, nasce come funghi, non ti chiede da dove vieni, non ti chiede se hai figli. Nel deserto della tua anima ci sono oasi dove nasce ciò che mai ti aspetteresti dalla luce dei tuoi occhi. Piangi, ridi, piangi, quando si ama si soffre, nel silenzio a rattoppare tutte le pezze. Ci sono spazi infiniti dove libero vola il cuore, ed è lì che sta crescendo tutto il tuo amore. Gli albori della sera sprigionano l'immenso, cipressi come lampioni illuminano il mondo. Principessa a cavallo tra le ombre delle ombre, brillano come fulmini le tue meraviglie. Piangi, ridi, piangi, quando si ama si soffre, nel silenzio a rattoppare tutte le nostre pezze. Ci sono spazi infiniti dove libero vola il cuore, ed è lì che sta viaggiando tutto il tuo amore. Nel vento il fuoco si espande, infiamma le foglie secche, bruciano, fanno male i ricordi, sono ferite sempre aperte. Se ci sentiamo abbandonati, è dentro di noi che siamo feriti. Se ci sentiamo traditi, è dentro di noi che siamo indifesi. Piangi, ridi, piangi, quando si ama si soffre, nel silenzio a rattoppare tutte le nostre pezze. L'amore non si costruisce, lui ti aspetta, lui ti ama, anche se a volte la solitudine può essere una lama. Piangi, ridi, piangi, quando si ama si soffre, nel silenzio a rattoppare tutte le nostre pezze. L'amore non si costruisce, lui ti aspetta, lui ti ama, anche se a volte la solitudine può essere una lama.